di la chitarra e vai per il mondo dove vuoi. Sono tante le strade, ma poi quella giusta troverai. Canta, canta i sogni tuoi, prendi la chitarra e vai per il mondo. Tu vedrai gente che non ride più, che non sa cercare ormai ciò che stai cercando tu. Il denaro è bello, ma conta più la libertà. Prendi la chitarra e vai, se ti fermi invecchierai. Oggi il mondo si burla di te, forse un giorno ascolterà. Canta, canta i sogni tuoi, prendi la chitarra e vai. Sui giornali leggerai che la pace si farà. Basta star con questi qua e fa fuori quelli là. Ma per quello che ne so, basterebbe dirgli no. Prendi la chitarra e vai, tu sei giovane perciò. Non vuoi male a nessuno perché senti tutti uguali a te.